Festival del diritto, una sfida nel rendere il diritto una materia che interessa chiunque e far capire che il diritto è vita di tutti i giorni, una sfida difficile ma su cui verterà il festival di quest'anno. Sì, è proprio l'obiettivo che ci poniamo, quella di riuscire ad affrontare il tema normalmente ostico, comunque affrontato dagli addetti ai lavori, da personaggi che non sono solo giuristi, sono filosofi, sociologi, storici, anche personaggi politici, in modo tale che la gente normale, la gente comune possa comprendere meglio una questione che vive tutti i giorni, con i propri comportamenti, con la propria vita. Noi scommettiamo molto in questa modalità divulgativa, mantenendo però il rigore scientifico che il Sole 24 Ore e l'editore La Terza garantisce.